Ciao a tutti, benvenuti a questa nuova puntata di Soul Time. Soul Time sulle frequenze di Radio Wombat. Allora, iniziamo questa nuova puntata di Soul Time con un cantante che si chiama Earl Jackson, al secolo Raymond Earl Jackson, che è nato nel settembre del 1941 e è morto nel 1972 a causa di un incendio all'età di 31 anni. Earl Jackson è stato un cantante, uno scrittore e un chitarrista americano di rhythm and blues e ha scritto tantissimi successi, la maggior parte dei quali alla fine degli anni 60 e agli inizi degli anni 70, principalmente per la Stax Records. Cresciuto a Memphis nel Tennessee, vi voglio proporre questa sera questo pezzo di Earl Jackson, stampato su etichetta Stardust, che si intitola Soul Self Satisfaction. Lui è Earl Jackson. Soul Self Satisfaction di Earl Jackson. Proseguiamo con la musica. Il prossimo pezzo che è pronto sul piatto di sinistra è un pezzo cantato da Florence DeBoer. Questa canzone è stata scritta nel dettaglio da Bobby Seusser, scritta e prodotta e stampata su etichetta Fee Dunn Records. Ci ascoltiamo questo pezzo dove c'è stampato un bel DJ copy Not For Sale, di cui sono fiero possessore. Ci ascoltiamo We Are Not Old Enough, canta Florence DeBoer. questa era la voce di Florence DeBoer. Il prossimo pezzo invece, che è già pronto, si intitola Poor Fool. È un pezzo cantato da un duo famosissimo, un duo che ha pubblicato addirittura 34 album. E loro sono Ike e Tina Turner, marito e moglie che raggiunsero, scusate, l'apice del loro successo durante gli anni 70. Questo pezzo si intitola appunto Poor Fool e loro sono Ike e Tina Turner. Ike e Tina Turner. Invece con il prossimo pezzo mi voglio spostare su sonorità un pochino in direzione, che vanno un pochino in direzione verso il funk. Quello che stiamo per ascoltarci è un pezzo di Lee Fields. Lee Fields è soprannominato anche Little JB per la sua somiglianza sia fisica che a livello vocale con James Brown. E Little JB Lee Fields ha una prolifica carriera che dura da 43 anni ed è tuttora attivo. Ha collaborato con tantissimi gruppi del soul e dell'R&B, ricordo uno su tutti come Kool & Gang. Questo pezzo si intitola Stand Up ed è inciso su etichetta Daptone. Stand Up. Stand up, let's get it. il pezzo in realtà prosegue sul lato B di questo bellissimo disco su etichetta Dapton, quindi andiamoci ad ascoltare anche il lato B di Stand Up. Con Stand Up, lato A e B su Dapton Records. A questo punto direi di rimanere qui nella pila di dischi che ho al mio fianco, sempre con la Dapton Records e sempre con suoni che richiamano direttamente, molto direttamente al funk. Ci andiamo ad ascoltare adesso Naomi Davis con questo pezzo che si intitola Promised Land. Yes, I'll be. Yes, I'll be. Naomi Davis. Anche per questo disco direi di andarci ad ascoltare il lato B, rimanendo con queste atmosfere funk. Giusto qualche cenno storico su chi è Naomi Davis. Naomi Davis Shelton è una signora di 74 anni, è una cantante americana di gospel, blues, funk e soul, che appunto nel corso degli anni si è cimentata con diversi generi musicali come il deep funk, quello che abbiamo ascoltato adesso, lo stesso Northern Soul, rhythm and blues, quindi all'interno di vari generi, sempre all'interno della grande famiglia che è la musica soul. Attualmente Naomi Shelton Davis è la cantante leader, singer, la cantante principale del The Gospel Queens di Brooklyn, un coro gospel. Quindi ci ascoltiamo il lato B di Promised Land, Naomi Davis con Sugar Man and Company, Dubton Records. Sugar Man and Company. Quindi dopo questa piccola scorpacciata di funk e suoni affini al funk, tornerei a un gruppo più prettamente soul, almeno prettamente soul in questo brano che tanti amanti del Northern Soul conosceranno. Questo brano si intitola Living for the Weekend e loro sono un gruppone, The OJs. Gli OJs sono un gruppo R&B statunitense originario dell'Ohio ed è attivo dal 1958. Ed è un gruppo inserito, mi viene in mente, come Ike e Tina Turner. Anche gli OJs sono stati inseriti, per quel che vale, ma comunque nel Rock and Roll Hall of Fame. Questo pezzone si intitola Living for the Weekend. Ci ascoltiamo The OJs. Come on, y'all. Sleep. Questi erano gli OJs con Living for the Weekend, da un pezzo dove la venatura disco è bella, bella forte, bella presente. Il prossimo pezzo che ho preparato invece è di un gruppo abbastanza oscuro e che ha fatto poca roba. Questo gruppo, questo quintetto vocale, doo-wop e rhythm and blues, si chiama The Germals. È un gruppo che si è formato a Richmond, in Virginia, nel 1959 e prese il nome da una strada del quartiere di Harlem. I suoi componenti iniziarono a cantare in gioventù nei cori scolastici e nelle chiese. Fu un gruppo che durò veramente molto poco e non ebbe tantissima notorietà ed è ricordato principalmente per questo brano, che riscosse comunque un discreto successo nel 1961. Il brano in questione è A Little Bit of Soap. Ci ascoltiamo i The Germals. A little bit of soap will wash away your lipstick on my face, but a little bit of soap will never, never, never, ever erase the pain in my heart and my eyes as I go through the lonely hills. A little bit of soap will never wash away my tears. A little bit of soap will wash away your powder from my chin. A little bit of soap will never, never, never, ever begin to take away the hurt that I feel as I go through the lonely hills. A little bit of soap will never wash away my tears. Have you heard when love begins to die, it leaves someone to cry night and day? Like a bird, you left your robin nest, and just like all the rest, you flew away. A little bit of soap will take away your perfume eventually, but a little bit of soap will never wash away the memory. So we'll never wash away my tears. I'll never lose the memory of your name in the night that I call through the lonely years. A little bit of soap will never wash away my tears. A little bit of soap will never wash away my tears. It's gonna never, never, never wash away my tears. A little bit of soap, The Germals. È arrivato il momento del lentone e ci andiamo ad ascoltare un grande, grandissimo classico di una grande, grandissima voce. La voce è quella di Percy Sledge, grandissimo cantante che è scomparso nel 2015, un cantante nato nel 1940. Percy Sledge ha iniziato a incidere fin da subito nel 1966 per la Atlantic Records, dopo aver lavorato inizialmente come infermiere a Sheffield in Alabama. Il suo primo singolo del 1966 è stato proprio quello che stiamo per ascoltarci, un singolo che ha ottenuto un successo straordinario in tutto il mondo, arrivando anche fino alla prima posizione della Billboard, nella Billboard Hot 100. Ci andiamo ad ascoltare questa canzone meravigliosa, è il momento del lentone, ve l'ho detto, When a Man Loves a Woman, Percy Sledge. Thing he's found. If she is bad, he Baci in studio, e dopo il lentone classicone di Percy Sledge, When a Man Loves a Woman, aumentiamo un pochino il ritmo. Ci andiamo ad ascoltare Ralph Donner, che Ralph Donner è un cantante anch'esso americano, un cantante di rock and roll, in questo pezzo che si intitola Don't Let It Slip Away. Lui è Ralph Donner. Ci ascoltiamo questo pezzo su etichetta Starfire. Never thought I'd feel like this before. Look at me, I'm feeling so bad, yeah. One of my buddies said you've been running around. You're gonna lose the best thing you ever had. I got news for you. It's just about a guy who's gonna make you cry, and I don't want to. Honey, I don't want to do it, but what can I do? Love only comes once in a lifetime. Don't let it slip away, don't let it slip away, don't let it slip away, don't let it slip away, don't let it slip away, don't let it slip away. I got a funny feeling, my heart starts beating. I feel it coming on now, inside of my soul now. Donner con delle Don't Let It Slip Away. Il prossimo pezzo sul piatto di sinistra che ci stiamo per ascoltare è una hit assoluta. Ce la canta Claudine Clark, una cantante nata a Macon in Georgia nel 1941, una cantante e musicista R&B conosciuta principalmente soprattutto per questa hit totale del 1962 che si intitola Party Lights. Yeah. Party Lights con Claudine Clark. Ecco qua, è pronto il prossimo brano. Questo è un brano del 1968 stampato su etichetta Crimson Records, un brano prodotto da Rice Mill. Ce la cantano i The Brothers 2 e questo pezzone si chiama Boogaloo Party, nella precisione Boogaloo tra parentesi Soul Party. Loro sono i The Brothers 2. Brothers 2 con Boogaloo Soul Party. Quindi la puntata anche questa settimana sta per concludersi e vorrei concluderla con una voce leggendaria, la voce è quella di Patti LaBelle, una cantante nata a Filadelfia nel 1944, una vera e propria leggenda della musica R&B e soul, in particolare di quello che viene definito il Philadelphia Soul, cantante conosciuta per la sua grandissima estensione vocale e che ha inciso tantissimi album e ha fatto un numero sterminato di duetti con tutte le più grandi voci della musica mondiale. Ci andiamo ad ascoltare Patti LaBelle con questo gran pezzo su Gold Disc, I Sold My Heart to the Junk Man. Questo è Patti LaBelle and the Blue Bells. Arrivederci, alla prossima.